Incontri di Gianfranco Fabi. Io, eterno studente, perché la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada, vedo un artista, solo piccolo baccelliere, perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. Addio, con questa canzone di Francesco Uccini, buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica, buongiorno e buon pomeriggio al professor Flavio Felice. Buongiorno a lei a tutti. Il professor Flavio Felice è professore di materie economiche e politiche alla Pontificia Università Lateranense. Ma professor Felice, perché un professore all'Università Lateranense è appassionato di Guccini? La passione nasce ovviamente da ragazzo, è stato uno dei primi autori che ho ascoltato e è rimasto con me in tutti questi anni e soprattutto in questi ultimi, nei suoi brani dell'ultimo periodo, se mi sembra sempre più vicino a quello che mi trovo a vivere quotidianamente. E questa canzone dice: io perché so di non sapere niente, esatto. Chierico vagante, bandito di strada, non artista, solo piccolo baccelliere, perché per colpa d'altri vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Esattamente la frase chiave questa, oltretutto insieme al non sapere niente, forse è proprio questa, a volte vada come vada mi vergogno di fare il mio mestiere per tante ragioni. Ecco, io so di non sapere, lo diceva un grande filosofo, ecco, ma forse è un'umiltà di chi sa di non sapere, sa di dover insegnare ma anche imparare dai propri docenti. Cosa vuol dire fare il professore all'Università Lateranense? Cos'è l'Università Lateranense? Prima di tutto l'Università Lateranense è una realtà interessantissima, una realtà che ha più di 250 anni ed è l'università della diocesi di Roma, in effetti. Quindi del Papa. E del Papa. Noi ci chiamiamo a titolo speciale l'università del Papa, anche perché è l'espressione che ha utilizzato Giovanni Paolo II in una sua visita nella nostra università. È un'università internazionale, abbiamo studenti da più di 90 paesi di tutto il mondo. E questo è motivo appunto di grande gioia per noi che vi insegniamo, ma anche di grande umiltà. Ricordo una delle mie prime esperienze, era il 2001, avevo appena iniziato ad insegnare in quell'università e con il piglio e a volte l'arroganza del giovane professore ho iniziato a parlare di proprietà privata in Adamo Smith, ho iniziato a parlare del proprietà privata, del diritto naturale di proprietà privata ed ecco che si alza la mano di un giovane indio speruviano, il quale mi dice con tanta umiltà, a differenza del suo professore di allora, mi dice che nella sua cultura non c'era assolutamente l'idea della proprietà privata, intesa come oltretutto diritto naturale. Io lì mi sono dovuto impegnare, riflettere su quello che avevo detto e anche rivedere la giustezza di quello che avevo appena affermato. Ecco che tutte le culture vanno un po' messe al vaglio della storia, delle condizioni, anche, cioè, quindi non fermarsi alle ideologie. Assolutamente. Quindi in queste cose, cioè sul fronte della società, sul fronte dell'economia, sul fronte della filosofia, anche l'Università della Lateranense non ci sono dei dogmi. Assolutamente, sul fronte prudenziale, come si usa dire, cioè sui temi della politica, delle istituzioni, non può esistere alcun dogma, anzi. Ecco, Flavio Felice è anche un esponente del pensiero liberale, presidente del centro studi Tocqueville-Acton. Spieghiamo un attimo che cos'è anche questo centro studi. Allora, il centro studi Tocqueville-Acton nasce dall'incontro di alcuni amici che si sono ritrovati intorno ad una passione, la passione comune relativa al pensiero del cattolicesimo liberale, in modo particolare un autore significativo come Alexis de Tocqueville da un lato e un altro autore altrettanto significativo ma forse meno noto, sicuramente meno noto, come John Acton, noto come Lord Acton. Ci siamo ritrovati e abbiamo cominciato a ragionare su come poter mettere insieme le nostre competenze, soprattutto la nostra passione intorno a pubblicazioni, intorno a convegni, ricerche, linee di ricerca ed ecco che nel 2006 nasce appunto il centro studi Tocqueville-Acton che oltretutto riprende in modo del tutto casuale, ma nulla apparrebbe così casuale come in questo caso, riprende il nome che il vecchio Friedrich August von Hayek propose per la Montpellerin Society, cioè la società di economisti, scienziati sociali liberali che nel 1947 si fermò appunto in Svizzera a Montpellerin. Lui propose Tocqueville-Acton, poi alcune componenti non cattoliche si opposero perché Tocqueville ed Acton erano due autori cattolici. Ecco, ma in questa prospettiva forse avete scelto due autori, diciamo così, stranieri, perché scegliere un autore italiano avrebbe connotato un po' troppo un impegno di questo tipo, anche se di liberali e cattolici italiani ce ne sono. Ce ne sono tanti. In realtà ad un certo momento della nostra avventura come Tocqueville Acton qualcuno ci ha proposto di aggiungere un terzo nome, un nome italiano, Luigi Sturzo, che è un po' l'autore per me più importante nella mia vita, insomma l'autore di riferimento. Poi abbiamo riflettuto sull'opportunità o meno di mettere anche il terzo nome, che abbiamo a un certo punto forse allunghiamo troppo il nome, detto rimaniamo sui due, ma come autori possiamo dire emblematici di una storia, di un pensiero, ma in realtà dietro poi c'è tutta una tradizione, non solo Sturzo, ma anche Sturzo. Ecco, l'ultimo libro di Flavio Felice è Istituzioni, persona e mercato, la persona del contesto del liberalismo delle regole, edito da Rubettino. Ecco, il liberalismo delle regole sì. È un liberalismo diverso dal liberalismo classico a cui si pensa di solito. Sì, per liberalismo delle regole ho inteso quella variante storica della tradizione, ricca, lunga tradizione del liberalismo che incontra autori quale Walter Eucken in Germania, Dylan Repke, Müller Armach e in Italia Luigi Einaudi e in modo particolare appunto Luigi Sturzo. In realtà il nome italiano è una traduzione libera la cui proposta è venuta dal professor Francesco Forte, con il quale da qualche anno portiamo avanti una collana editoriale dedicata all'ordoliberalismo. Ora è difficile tradurlo in italiano, abbiamo pensato come il liberalismo delle regole. Che è quello da cui poi è nata anche l'economia sociale di mercato, di cui dobbiamo sicuramente parlare. Esattamente, esattamente, sì. Ecco, quindi il liberalismo delle regole è questa, diciamo, questa forma, questa disciplina nata un po' in Germania che sì. Richiede che in una società liberale in cui ci sia la massima libertà per le persone, però queste persone debbano rispettare delle regole che garantiscono un ordine sociale, che sì. Garantiscono appunto alla società che non ci sia un'anarchia, ma che ci sia anche una prospettiva. Ma i fini di questa società, chi le dà, le regole o le persone? I fini li danno sempre le persone, e quindi la società in liberale non può che essere policentrica e poliarchica. Le istituzioni consentono però alle persone di selezionare i fini che poi andranno perseguiti all'interno della società. Ecco, ma nell'economia sociale di mercato, nell'economia appunto di mercato, quindi in cui c'è la libertà di consumare, la libertà di produrre, la libertà dei consumatori, la libertà dei produttori, questa socialità chi la esprime? I singoli o la società? La esprimono i singoli in società, i singoli che si associano innumerevoli, in miriadi di modi diversi attraverso le comunità che vanno, le comunità sono le famiglie, le comunità sono le imprese, le comunità sono le banche, la comunità sono le cooperative, le associazioni, le bocciofile, sono tutto ciò che le persone individualmente e accanto ad altre persone cercano di stabilire per raggiungere determinati obiettivi. Ecco, ma in Italia c'è sempre questo contrasto di fondo, non si vede, non si riesce a fare un'unità appunto tra la socialità e il liberalismo, bisogna essere da una parte o dall'altra, c'è questa forma bipolare per cui magari viene presa questa economia sociale di mercato come una terza via, ma non è una terza via vera e propria. Ma io credo che in Italia ci sia molto più liberalismo di quanto non si teorizzi, il che è un bene da un lato e un male dall'altro. È un bene perché intanto possiamo dire che il policentrismo della società italiana è un dato di fatto, forse siamo il paese dove è maggiore il numero di associazioni, di realtà intermedie appunto, come si usa dire. Dall'altra parte è poco teorizzato perché il liberalismo sconta in Italia anche una cattiva letteratura, una cattiva propaganda, ma una cattiva possiamo dire anche ricezione dei testi classici che hanno portato poi il liberalismo. E per questo motivo parlare di liberalismo oggi è difficile, si deve parlare di liberalismo, ma è difficile perché per liberale intendiamo qualsiasi cosa, ma è giusto che sia così. Negli Stati Uniti liberale significa una cosa, in Germania un'altra, in Italia un'altra ancora. Beh, in Italia c'è stata una vicenda politica legata a un partito liberale che poi è scomparso, forse ecco questa scomparsa, questo legame troppo, troppo forte con un partito ha segnato un po' anche l'immagine dello stesso liberalismo. Sì, l'idea stessa che ci sia un partito liberale contrapposto ad altri partiti non è proprio, possiamo dire, è stato un toccasano per il dibattito sul liberalismo in Italia, perché significava identificarsi con un partito, mentre il liberalismo è trasversale. Nei paesi normali il liberalismo è trasversale, il Partito Repubblicano e il Partito Democratico in America sono entrambi grandi liberali, ma si differenziano poi sulle proposte politiche. Certo. Ecco, questo libro, appunto, dicevo, Istituzioni, persone e mercato, si conclude guardando in avanti, guardando alla prospettiva, la parte quarta dedicata alla prospettiva, e in questa parte quarta c'è un esame, un'analisi della Caritas in Veritate, sì, che è l'ultima enciclica di Benedetto XVI dedicata appunto all'economia. Ma si può definire un'enciclica liberale? No, ecco, no, questo non mi azzardo ad una simile definizione, però è un'enciclica che ha il grande merito di interloquire, di lasciarsi interpellare e di interpellare la cultura liberale. Ecco, questo credo che sia stata la grande ricchezza, prima di Giovanni Paolo II e poi infine di Benedetto XVI, quella di non chiudere il magistero sociale della Chiesa in una sorta di monologo che non ascolta l'altro, no, e invece un lasciarsi interpellare, cioè fare in modo, volere assolutamente che il proprio interlocutore, no, ponga delle domande, lasciarsi interpellare dall'interlocutore e a sua volta però interpellare l'interlocutore sulle sue convinzioni, sui suoi dogmi, perché esistono anche i liberali dogmatici, certo, contro i quali appunto possiamo dire il liberalismo delle regole dal mio punto di vista si pone, cioè liberali non dogmatici e moralisti non ottusi, per usare l'espressione Irvine Repke. Ecco, in questa prospettiva allora il richiamo del Papa, il richiamo di questa enciclica è soprattutto a dare dei valori all'agire della persona, agire della persona che poi deve trovare nella società la sua massima possibilità di espressione anche attraverso forme che non siano di mercato. L'enciclica Caritas in Veritate, sì, pone molto accento sull'economia del dono, sull'economia della solidarietà, che fa parte anche questa qui di un'economia liberale. È molto intesa, lo è sicuramente. Anche qui sull'economia del dono bisognerebbe dire una cosa, che non in realtà Benedetto XVI, quando parla del dono, ne parla nel paragrafo 35, e la inserisce nel contesto dei fattori extracontrattuali. Sono quei fattori extracontrattuali necessari affinché poi i contratti siano veramente realizzati e in qualche modo accompagnino i processi di mercato con efficienza. Quindi l'economia del dono non è qualcosa che si aggiunge al mercato o che si sostituisce al mercato, si giustappone o lo sostituisce, bensì che fonda il mercato. Anche qui nulla di nuovo dal punto di vista delle scienze sociali. Il Repke parlava esattamente in questi termini quando, nel definire il mercato, lo definiva come un sistema di regole che ha alla base una determinata prospettiva antropologica. È questo. Quindi non contraddice il sistema di mercato, ma in certo qual modo lo vitalizza. Le offre la cifra, le offre una cifra antropologica, perché poi sul mercato le persone operano. Ecco, qui però ci vuole una grande fiducia nelle persone, una grande fiducia come una persona che sia al centro della società, certo, di una società che veda la persona come capace di costruire, di avere una dinamica, e non una persona capace di obbedire o di stare nell'ambito di appunto di un regime prefissato, di dei rapporti prefissati all'interno della società. In questo senso c'è molto da fare anche a livello di cultura politica in questa Italia di oggi, in questa estate in cui si muove l'Italia di oggi. Non c'è dubbio, l'idea che la persona non sia lo strumento attraverso il quale l'ordine politico raggiunge obiettivi che in modo del tutto arbitrario ha stabilito, bensì che sia il fine stesso sia la persona e le istituzioni lo strumento affinché le persone possano raggiungere i loro personali obiettivi. Ecco, in questa prospettiva si parla appunto di dottrina sociale della Chiesa, mi pare che lei abbia anche dei compiti, delle responsabilità in questa prospettiva, in commissioni di studio, in gruppi di lavoro che portano avanti appunto un approfondimento della dottrina sociale della Chiesa. È una prospettiva questa dottrina sociale della Chiesa che è ancora attuale nel mondo di oggi? Ovviamente la domanda è provocatoria. Sì, certo, la colgo. Sì, è sicuramente attuale, ovvio, nella misura in cui gli interpreti la sappiano poi presentare, perché altrimenti non, di per sé potrebbe essere la cosa più antica, più vecchia e inutile. Se invece la si presenta legata ai problemi come una riflessione sui problemi attuali e come un tentativo di rispondere al dramma che i problemi attuali portano con sé, allora sì che è molto attuale. Papa Francesco oltretutto ci parla quotidianamente di questi problemi. Ecco, in fondo che anima e corpo non possono essere divisi, se si può salvare l'anima va bene, ma si possono salvare i corpi ancora meglio. Ancora meglio, certo. In questa prospettiva allora c'è un futuro anche di approfondimento in questa logica, proprio in questo rapporto tra cattolicesimo e liberalismo. Quali sono i filoni verso cui sta andando la sua ricerca? Ma la mia ricerca va nella direzione di uno studio sempre più attento nei confronti di questa vecchia antica tradizione che è l'economia sociale di mercato, però vedendo come oggi possa essere riutilizzata, quindi individuare ad esempio il filone dell'impresa, il filone del diritto il diritto del lavoro ed altri filoni come ad esempio l'economia monetaria, che sono tutti aspetti importanti che oggi appaiono di urgenza, essere molto urgenti e che richiedono di essere appunto risolti. Certo, per passare dalla teoria alla pratica, esatto. Dalle ipotesi, dai valori complessivi anche alle scelte concrete. Incontri. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Ecco, ancora con Francesco Guccini, Addio del 1999, riprendiamo il nostro dialogo con Flavio Felice, professore di dottrine economiche e politiche alla Pontificia Università Lateranense, dove dirige l'area internazionale di ricerca Caritas in Veritate, è anche presidente del centro studi Tocqueville-Acton e è coordinatore scientifico dei corsi di formazione in dottrina sociale della Chiesa organizzati dalla Fondazione Centesimus Annus. E abbiamo ripreso con queste parole di Francesco Guccini, che è una delle passioni del professore Flavio Felice, in cui si dice: io figlio di una casalinga, di un impiegato, cresciuto tra i saggi ignoranti di montagna. Dov'è cresciuto Flavio Felice? Allora, io in realtà sono figlio in realtà di una casalinga e di un impiegato. I miei genitori sono cresciuti in un paese della montagna, vengono dalla montagna abruzzese molisana, ma io sono cresciuto in realtà in un paese di mare. Sono vissuto, cresciuto in un paese di mare, ma respiro quell'aria montanara abruzzese. Beh, l'Abruzzo è molto, esatto, terra, mare, montagna, molto vicini, molto collegati, esatto, appunto, esatto. Quindi il Gran Sasso, Teramo. Sì, d'estate ci facciamo il bagno e vediamo all'ombra del Gran Sasso. Si può sciare sul, sì, Gran Sasso guardando il mare. Sì, sì. Ecco, quindi quest'aria di montagna, ma come si diventa, che cosa l'ha fatto nascere un po' la passione per la filosofia, per l'economia, per la società, vivendo, nascendo in un paese di montagna? Ma diciamo che la passione è nata via via studiando, fino alle, posso dire che già dalle scuole superiori, ecco, ricordo bene che è stato in realtà la passione nasce intorno alla letteratura, una letteratura medievale italiana mi ha in qualche modo spinto ad approfondire alcune tematiche, poi l'incontro con Machiavelli e da Machiavelli via via verso autori più recenti, ed è nata questa passione all'università. Poi mi sono iscritto a scienze politiche e da lì l'intersezione con l'economia, con le materie giuridiche e poi via via la possibilità di fare un viaggio di studio negli Stati Uniti e il ritorno in Italia alla ricerca disperata di un lavoro, ma anche fortunata. Non hai avuto la tentazione di fermarsi negli, sì, Stati Uniti? Sì, ho avuto la grande tentazione, poi non c'erano le condizioni familiari perché poi ciò potesse accadere e quindi sono tornato a malincuore, ma anche fiducioso in Italia poi. Quali sono le differenze maggiori che ha colto, soprattutto a livello appunto di studi universitari, post-universitari, sì, di realtà giovanile americana rispetto a quella italiana? Beh, una grande indipendenza da parte dei giovani statunitensi. Ricordo, io arrivai il primo di settembre a Washington, all'università, alla Catholic University di Washington, e ricordo questo giorno in cui tutti i ragazzi accompagnati dalla famiglia arrivavano in università, salutavano i genitori consapevoli che probabilmente sarebbero tornati soltanto per qualche festività, ma che la loro vita da quel momento sarebbe cambiata definitivamente. Iniziavano ad essere adulti, indipendenti, liberi, dovevano cercarsi un lavoro, dovevano studiare, una borsa di studio e via, per tutta la vita così. Ecco, questo non accade tra i nostri giovani, non per colpa dei giovani o non solo per colpa dei giovani. Ecco, quindi c'è per colpa un po' delle mamme. E per colpa delle mamme, non c'è dubbio, per tante ragioni, ma di fatto è così. Questa è una prima grande differenza. Poi la seconda grande differenza che ho trovato è quella di essere qualcuno a prescindere da chi, dai tuoi genitori, ecco, per intenderci. Questo l'ho notato, ricordo un'esperienza stavo per tornare dagli Stati Uniti e prima di che partissi una persona mi disse: la settimana prima che torni chiamami, così poi ci incontriamo. Io la settimana prima di tornare chiamai questa persona, mi risponde la segretaria, io mi presento, sono Flavio Felice, ho bisogno di parlare col signor Taglietari, con il dottor Taglietari. E la segretaria mi risponde: chi è lei? Flavio Felice. Ossia, ecco, in quell'ossia per me c'è tutta la differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia. Ecco, quindi una società più libera. Ecco, molto spesso viene vista la società americana come la società del liberalismo, con cui il liberalismo si è praticato, al contrario di un'Europa in cui il liberalismo forse ha avuto alcuni grandi padri che però dopo la società ha un po' abbandonato. È vero questa prospettiva? In parte, sì, è sicuramente vero. I grandi spazi sicuramente avvantaggiano questi processi. Noi siamo, oggi possiamo parlare di Europa, ma non siamo ancora una nazione europea, siamo ancora un insieme di stati. Negli Stati Uniti invece, gli Stati Uniti d'America sono uno degli Stati Uniti d'America, la mobilità favorisce esattamente questi processi, il fatto di non essere legati in modo particolare a nessun posto particolare, ecco, favorisce sicuramente anche la maggiore libertà. Ecco, anche una certa tradizione, gli Stati Uniti sono nati in fondo da europei che hanno cercato la libertà, esatto, in questo paese, e quindi hanno difesa poi questa libertà. L'hanno difesa proprio perché conoscevano i mali, il terrore, possiamo dire, di quell'idea invece di Stato-nazione che aveva provocato soltanto guerre. Ecco, ma anche l'Unione Europea è nata con dei principi di libertà, il libero mercato, il mercato comune era essenzialmente un liberare, un togliere le frontiere, un ampliare l'area della competizione, un misurarsi ad armi pari paese con un altro paese, quindi un avvicinare i paesi in un'ottica appunto di progressiva apertura. Come mai poi questa Unione Europea ha un po', diciamo, un po' tradito le sue origini, fa fatica a superare le vie nazionali, anche a scegliere tra l'essere una confederazione e l'essere invece avere una propria unità politica. Sì, le strade che si posero all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, le strade erano due: o andare verso una federazione in modo immediato, saltando dei processi, ovvero per via funzionalistica raggiungere lo stesso obiettivo per gradi. Prevalse la seconda, giustamente, anche federalisti come Einaudi, ad un certo punto anche De Gasperi accettarono la via funzionalistica. Certo è che poi le classi dirigenti successive si sono in qualche modo arenate sulla contingenza, non riuscendo a fare quei passi coraggiosi che i loro padri invece erano riusciti a compiere, forse perché, come diceva Einaudi, la spada di Satana incombeva in quel momento, cioè una terza guerra mondiale, via via che questo rischio si andava attenuando, anche la propensione, anche appunto la spinta verso una soluzione federalista si è andata indebolendo. Ecco, poi c'è stato l'orologio della storia che ha segnato un po' dei grandi cambiamenti, soprattutto la caduta del muro di Berlino, la caduta dei regimi comunisti, che hanno un po' costretto l'Europa a darsi delle nuove forme, a darsi, esatto, delle forme anche forse un po' più pesanti di quelle originarie. Questo allargamento dell'Europa, necessario, doveroso sotto un certo profilo, però ha comportato delle conseguenze ed è certamente difficile da portare avanti senza avere una prospettiva di rinuncia in fondo delle sovranità di ogni paese. E ogni paese in fondo è un po' geloso della propria sovranità. Eh sì, ha ragione, l'allargamento necessario avrebbe dovuto andare di pari passo con una maggiore generosità da parte degli stati fondatori che hanno deciso ad un certo punto di iniziare questo processo. Ecco, qualche passo non è stato compiuto, ci si è chiusi nel burocratismo più cieco e l'Europa è diventata sostanzialmente una mega burocrazia guidata da tecnocrati. Questo è quello che si dice, ma questo è quello che i cittadini avvertono, quindi è quello che in democrazia possiamo la realtà sancire. È soprattutto quella che percepiamo. Esatto, infatti. La realtà è quella che percepiamo, è inutile dire che è una percezione diversa dalla realtà, è quella e basta. Quindi bisogna ricominciare il processo e ricominciare a partire da un atto di generosità lo stesso che ebbero i nostri padri. Allora, torniamo a Flavio Felice, professore dell'Università Lateranense, ci avviamo verso la conclusione. Come vede la sua prospettiva? Un impegno nella ricerca, nello studio, nella filosofia applicata poi alla realtà sociale ed economica, o magari entrare in politica? No, entrare in politica non mi sembra. No, non che dispiaccia, anzi, no, la considero l'arte nobile. Una vocazione anche questa. Esatto, un'arte nobile. non ne vedo assolutamente però le condizioni. Al momento faccio, tento di fare il mio meglio lì dove sono, e abbiamo in programma insieme all'area di ricerca una serie di, la ricerca appunto che dirigo all'area teranense, una serie di iniziative, di convegni, di pubblicazioni. Stiamo iniziando a lavorare sul terzo volume antologico insieme a Francesco Forte dedicato all'economia sociale di mercato. Abbiamo messo in programma per l'anno prossimo una serie di convegni, insomma, col centro studi Tocqueville-Acton, con l'area di ricerca, insomma, di carne al fuoco. Cioè. Anche perché bisogna contrastare un po' i nemici, l'economia sociale di mercato, alcuni nemici ne ha. Sì, sì, quali sono? Ma allora, noi proprio, sì, la ringrazio per questo riferimento che è appunto al volume antologico, al secondo, l'economia sociale di mercato e i suoi nemici. Noi abbiamo distinto tra nemici interni ed esterni. I nemici interni sono quelli che tentano in qualche modo di modificare il paradigma, no? Di modificare le voci che caratterizzano l'economia sociale di mercato, e interpretano in fondo poi l'economia sociale di mercato come un'economia di mercato annacquata da un po' di statalismo. Ecco, questi sono i nemici interni. Poi ci sono i nemici esterni, sono quelli che invece fanno leva proprio sulla debolezza causata dai nemici interni per dire: vedete, l'economia sociale di mercato non è altro che un'economia dirigista e non funziona. Allora bisogna difendersi da entrambi in questi casi. Ecco, una visione poi in cui l'economia resta alla base e uno dei nemici è anche la voglia di potere. In fondo un vero liberalismo annacqua un po' il potere delle istituzioni, certo, il potere del sovrano, e quindi in questo senso ci sono ancora dei poteri forti. Sì, il liberalismo è proprio questo, nasce proprio come tentativo di limitare il potere del sovrano. Ora, quando il sovrano è lo Stato che fa le leggi, il liberalismo si pone come obiettivo la limitazione di quel potere. Quindi i nemici sono tanti, tutti coloro che da liberali diventano potenti probabilmente diventano i primi nemici del liberalismo. Ecco, in questo senso la Chiesa di Papa Francesco sta diventando una chiesa un po' meno di sovrani e un po' più di parroci. Un po' più di parroci, ed è la cosa molto bella, più pastorale, o comunque lo è in modo più esplicito, non che non lo sia stata e non lo fosse prima, anzi, però adesso lo è più esplicito. C'è una bellissima espressione di Papa Francesco che io ho ripreso in un articolo di qualche settimana fa, quando dice, che poi è il suo intervento inaugurale, proprio nel suo intervento inaugurale: il potere è servizio. Ecco, che sembra, possiamo dire, quasi banale, ma noi siamo abituati spesso a sentir dire che la politica è servizio. No, in questo caso il potere è servizio, cioè è la declinazione in termini funzionali del ruolo delle istituzioni. E anche il potere degli intellettuali. Ah, sicura, quello sicuramente. Grazie al professor Flavio Felice, docente di economia, di discipline economiche della Pontificia Università Lateranense, di essere stato con noi questo pomeriggio. Lo ringraziamo. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica. A lei buona domenica.